stia salendo. Dottore Claudio. Eia. No, la roba di Mario, manca solo la domandina, dimmi Luca. Ti ascolto. Sentiamo per Radio 5, dove sei? Ma dove c'è l'assisa? Il campo mela quello, io ti sento bene. E mi senti bene. Quello è il campo mela, non c'è scritto, stazione di campo mela. A ci arrivo io a campo mela. Sì, c'è la salina, avanti la salina. Arrivo io a Campomela, ci arrivo. Sarebbe, io sono piccolo, la pizza, è logico che mi ascolti piccolo, però già ci arrivo. L'importante è arrivare. Cosa sarebbe se fisso? Claro, ma tu mi tu la macchina. Sta lì. E a me mi ascolti Luca. Cappa, ora ti ascolto, forte e chiaro. Sta lì, l'ascolti a Luca. Ma non lo sopra modulate. Già l'ascolto, se mi ha risposto pure. Ciao, già arrivo a dove parti. Ciao Natali, buongiorno, ben sentito. E vedrai tu domani, sentirai anche a Roberto Quadrato, bene, non ti preoccupare. E allora, domani sentirai anche a Roberto, se non arrivi più forte di me, buro. Esageremo, va. Ma tutto valutate, c'è una buona zona. Ma dobbiamo montare l'antenna, è montata una posizione buona, alta, e dovrebbe al 99% lavorare quanto è me. Guarda, credo che non ci siano problemi per sentirlo. Ma dimmi una cosa, Claudio, cambiamo il discorso di Multimanda, su cosa c'hai? Faccia, via l'Italia, faccia. Poi vedrai, nella prima buca, guarda che c'è, dimmi quando c'è dentro la buca. Prima quella corta e vedrai che mi senti lo stesso. Cos'è questa roba? Ma dico, tu non hai un'antenna di ricezione multibanda, non le utilizzi? Come faccio? Io ho una multibanda a filare, ma la uso in trasmissione. Quella radio grande che hai visto nera, quella c'è una multibanda lì, quella c'ha i 10, 15, 20 e 40. Capito? È un'antenna praticamente multibanda. Banda, ricezione e trasmissione. Tu più che altro la usi in trasmissione, il radioascolto non è che ne fai di tanto, così. Ma il radioascolto lo facciamo tutti, Roberto, se io ho questa torta. Ma l'hai visto come si è attaccata l'antenna Luca nel furgone? Ma te l'ho fatta vedere? che ci ha preso il caffè, Mario. Scappa, ma la sto anche pippando ora. Tra poco bisogna scappare però, mi dispiace. Però il dovere ti chiama e bisogna correre. Il dovere è una cosa brutta. Io c'ho oggi, domani, sabato e domenica e poi lunedì. Siamo in un momento di combattimento, anche se non a Giugana. Stavo decidendo se rimanere un'altra settimana a casa, ma rimanere a casa in malattia, ma ne vado a lavorare, che sto meglio, almeno mi svago. Kappa. Stare chiuso dentro casa è brutto, vabbè che tu un poco sei da Roberto, un poco sei da una parte, un po' sei dall'altra, e bene o male riesci a distrarti ugualmente. Sarebbe stato peggio se sei stato obbligato a rimanere dentro casa, sarebbe stato un casino, perché ti viene anche nervoso, perché non riuscendo a fare niente ti viene nervoso, capito? Per uno che è abituato a muoversi qui, a destra, a sinistra, sali, scendi, porta questo, fai quello, è diverso. Stare in casa è una cosa diversa. Allora, ti sembra di essere prigioniero dentro quattro mura. Purtroppo la vita è così. Vabbè, là, in compenso non ti è andata tanto male, perché già ti sei riposato un po', però non abbastanza. Si conferma. E vabbè, queste sono cose normali che io sono abituato a fare, dai, non c'è problema. Tutto va bene, tutto. Vediamo quello che è arrivato Luca. Luca? Sto passando la città del cazzo, dai. La città del cazzo, lui ha fatto la nota veloce. Ma hai sentito mi ha detto la galleria la prima? Capito? Vedi là, tutto a posto? Anche le fare tutto miracolo, ce la fare ancora. Lui mi ha detto una settimana, ci mette, anzi 4 giorni a lucidarla. Io l'ho lucidata, non è contento, deve lucidare meglio. Meglio di così non è, ce l'ho, una marca era abbandonata 4 anni, 5 anni. Cosa vuoi fare? Ma le luci cos'è? La riverniciata fa la cima di luci. Scusate, vuole riverniciata con la barca. Se la riverniciata c'è un bombo. Valo. Anche adesso è nuova, lì. È bella lucida. Prima che sta tutta vecchia, tutta piena di muscolo, cosa è? Vabbè signori, io vado a travagliare. Saluto a tutti, ci sentiamo domani stanotte. Ciao a tutti. Ciao Robert, ciao. Riprendi Claudio. Claudio. Ciao Robè, salutoni alle prossime, dai, ci sentiamo stasera, poi già ci vediamo in verticale. Dove sei arrivato? Qua, come si chiama, vicino al cimitero sono. Ma stai andando sempre bene, 9, radio 5, perfetto. Deve essere normale, stai andando alla grande, perlomeno io ti ricevo sempre forte e chiaro, nessun problema. Roberto, è andato al lavoro, là, sono già le 2:30. Ciao Roberto, buon lavoro e ci sentiamo stasera, là. Oh Claudio! Sì. Allucinante, ti metto la freccia, no, normale! Come modulo qua, sta che andare da bomba veloce, come mai? Perché c'è un centro di elettronica con la macchina della giuritto, per un casino c'è un borgone. Capito, poi si è attaccato la cindiciga, no? Da lì partono tutte le deviazioni, vabbè, ma non è quasi nulla. La donare bisogna poco. Cazzo, non funziona neanche cosa la benzina del gasolio, la freccia è a zero, Ma quando parli? No, ogni tanto sale, ogni tanto scende, E poi il gasolio scende, ha messo un ventino lui ieri, cazzo, è proprio attaccato a zero. Roberto, cioè, la fanfuffia. Ho sbagliato nome. Davvero, non ti la prendere. Ciao Marco, buona caffeina anche a te. Torna Marco, mi Roberto. Aspetta, torna il controllo. Vedi me. Ciao, Robert, ciao.